Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali. La trasmissione animalista, antispecista e vegan che si occupa dell'attualità, delle idee, delle lotte per la giustizia sociale, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani, nella persuasione che un futuro di giustizia sia possibile solo ripensando la posizione della specie umana rispetto alle altre forme viventi. Questa settimana parleremo di astronauti che mangiano insetti, di scimpanzé rapiti, dell'ingiustizia e dell'orrore degli allevamenti intensivi, dell'educazione o della diseducazione al rapporto con gli animali non umani. Gabriele Palloni, chef e anche DJ, si è occupato della ricetta della settimana e della colonna sonora della puntata, che è la numero 661. La fotografia scattata in orbita ritrae Samantha Cristoforetti mentre gusta una barretta o un biscotto, insomma uno di quegli alimenti che pensiamo essere tipici degli astronauti, cose confezionate, poco ingombranti e molto nutrienti. Ebbene, quella barretta è a base di insetti, nello specifico farina di grilli, e ha suscitato un discreto dibattito sui social e anche sui media generalisti. Il Corriere della Sera, per dire, ha dedicato al caso un'intera pagina di cronaca, riportando il giudizio di Astro Samantha. Alimento ottimo, ha detto. Commenti che vi lasciamo immaginare. Si va dal meglio la pasta a io gli insetti mai. La Cristoforetti, oltre che soddisfatta sotto il profilo del gusto, è parsa anche assai preparata in materia. Sapevate, ha scritto la neocomandante della Stazione Spaziale Internazionale, che oltre 2 miliardi di persone al mondo mangiano insetti? Secondo la FAO, ha aggiunto, oltre 2000 specie di insetti vengono consumate dagli esseri umani in tutto il pianeta. E ora, anche nello spazio. A supportare la tesi di Samantha sul Corriere è stata riportata anche l'opinione di un nutrizionista, Nicola Sorrentino, il quale ha detto che gli insetti sono fonte di proteine in molti casi superiori a carne, pesce e soia. Forniscono, ha detto Sorrentino, energia, aminoacidi, acidi grassi essenziali e micronutrienti benefici per la salute umana. In questa redazione continuiamo a pensare che un'alimentazione su base totalmente vegetale sia sempre da preferire, per ragioni di natura etica e politica. Ma possiamo intanto constatare che qualcosa sta cambiando e che certe rigidità sembrano in via di superamento. Cambiare alimentazione si può, e lo dicono a questo punto in tanti. E si può cambiare anche allevamenti, a quanto pare, visto che allevare grilli e larve sembra, per l'opinione comune, moralmente preferibile all'allevamento di vitelli e maiali e galline, per ragioni che sono anche intuitive. Non stupiamoci, dice il dottor Sorrentino sul Corriere, se ci troveremo a consumare aperitivi a base di spiedine di larve e cavallette fritte, ma noi ci stupiremo ancora meno se per gli stessi aperitivi fossero un giorno, speriamo molto presto, servite solo bruschette e fagioli e zucchine fritte. Thank you. battaglia, tedeschi e fascisti, fuori d'Italia, tedeschi e fascisti, per sempre fuori d'Italia, ridiamo a tutta forza, pietà le morta, ridiamo a tutta forza, pietà le morta. A proposito di allevamenti intensivi, va registrata la presa di posizione di un personaggio insospettabile, come Giovanni Maria Flick, antico ministro della giustizia in un governo Prodi. Stiamo distruggendo scientificamente, ha detto Flick, la biodiversità con gli OGM e gli allevamenti intensivi degli animali, i quali ricordano, nella migliore delle ipotesi, i campi di concentramento. E forse sono anche peggio. Così Flick, che è stato anche presidente della Corte Costituzionale durante un incontro pubblico a Genova con gli studenti sul 75° anniversario della Costituzione. Flick ha fatto riferimento all'articolo 9 della Costituzione, recentemente modificato per introdurre sia il tema della biodiversità sia quello della tutela degli animali. L'articolo 9, ha detto Flick, lega il passato, ossia la tutela del patrimonio storico, anche quello negativo, come la Shoah, la risiera di San Saba o le bombe a gas sulla Abissinia, tanto per essere chiari, con il futuro, su che cosa progettiamo per il nostro futuro. La prima cosa che afferma la riforma dell'articolo 9 è che bisogna pensare alle generazioni future, ha detto Flick, cioè ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché noi abbiamo forse pensato troppo poco ai giovani mentre lavoravamo cercando di consolidare la Costituzione. In effetti la condizione animale, come sembra sostenere anche Flick, ha a che fare sia con il passato, i sistemi concentrazionari, il disprezzo delle vite altrue, sia con il futuro, ossia con l'urgenza di immaginare modi di produrre, consumare e vivere radicalmente diversi da quelli attuali. La pentola stava scendendo la sera e io ero pronta per andare a dormire. Birocciaie sfollate per il coprifuoco ritornavano a cercare un riparo. Era il 44 sui monti di Reggio, la notte di San Giovanni. La ronda ha scoperto tre partigiani venuti per distruggere il ponte. E rivedo la bettola in fiamme. Sempre a proposito di allevamenti intensivi, va segnalato l'esito di un referendum che si è tenuto in Svizzera sulla proposta di introdurre nuove regole più stringenti sul benessere animale in queste strutture. È stato detto in qualche sintesi giornalistica che gli elettori erano stati chiamati a dire sì o no agli allevamenti intensivi, ma si trattava in realtà, più modestamente, di prevedere misure più stringenti di mitigazione della sofferenza animale, misure che gli allevatori hanno interpretato come una minaccia alle proprie attività, che avrebbero rischiato di finire fuori mercato per i maggiori costi di gestione. Il referendum, ad ogni buon conto, è stato bocciato dal 62,8% dei votanti. Solo nel distretto elettorale di Basilea Città si è espressa a favore la maggioranza degli elettori, con il 55%. Mi sento di poter essere inesorabile e di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. È qui, è quel passato che affiora, sono scatti di rabbia e tensione, non regge più. John lo sa, 70 anni e tornerà ad abbracciare il suo fucile. Se deve andare un partigiano e lotterà, c'è pietà. Il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia. La prima doccia si scoppia in faccia, sangue freddo in pieno sole. Ma John è molto stanco e da fame, fame d'aiuto e supporto che la bufera non dà. Hanno mischiato le carte in banco, in casa è una truffa. La sabbia è oro per chi non sa. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole, dritto in faccia, si scoppia in faccia. Il nostro programma, nel dichiararsi animalista, antispecista e vegan, afferma un punto di vista molto preciso, e cioè l'attitudine a considerare gli animali non umani come individui degni di rispetto e titolari, in quanto esseri viventi, di una propria dignità, di un diritto alla vita. È il punto di vista antispecista, che a noi pare possibile, giusto e anche spontaneo. Ci sentiamo fratelli degli altri animali, solidali con loro in ogni momento delle nostre e delle loro vite. Questa attitudine nella società presente non è però maggioritaria e c'è anche chi sostiene che sia incompatibile con la natura umana. Il dibattito è aperto, con tutte le iniziative sociali, culturali e politiche che ne discendono. Nei giorni scorsi è uscito sul quotidiano Il Guardian un interessante articolo su una ricerca che mette in luce il peso delle prassi educative nel delineare nei cuccioli della specie umana il comportamento rispetto agli altri animali. Ce ne parla Francesco Panier. I bambini pensano che gli animali da fattoria meritino di essere trattati così come gli esseri umani, ma perdono questa convinzione nell'adolescenza. Molte e molti di noi hanno prove di come questa empatia innata venga poi smorzata dalla durezza del vivere e dall'immersione progressiva nella cultura dominante, ma questa volta a dirlo è un primo studio condotto da ricercatori dell'Università di Exeter e Oxford, che hanno intervistato un campione composto da 479 persone divise in tre gruppi. Un gruppo di bambine e bambini tra i 9 e gli 11 anni, uno di giovani tra i 18 e i 21 anni e uno di uomini e donne più anziani. A tutti è stato chiesto come dovrebbero essere trattati diversi tipi di animali rispetto agli umani. In generale, i bambini hanno affermato che gli animali da fattoria e gli esseri umani dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Ritengono inoltre meno moralmente accettabile mangiare animali rispetto a entrambi gli altri gruppi di intervistati. I risultati suggeriscono che lo specismo, quella gerarchizzazione che attribuisce un valore diverso all'umanità rispetto alle altre forme viventi, venga appreso durante l'adolescenza. Anche all'interno delle specie animali, poi, le risposte del campione fanno emergere un doppio standard. Lo racconta uno degli autori dello studio, Luke Maguire, quando dice alla testata britannica The Guardian che alcuni animali sono amati compagni di casa, mentre altri sono tenuti negli allevamenti intensivi per benefici economici. I giudizi delle persone sembrano dipendere in gran parte dalla specie dell'animale in questione. I cani sono nostri amici, i maiali sono cibo. La ricerca afferma che un aspetto importante della mente umana è chiamato acrobazia morale. Le persone possono sostenere in pratica valori etici che si contraddicono a vicenda e utilizzare doppi standard morali. Ma le origini delle acrobazie morali relative agli animali sono poco conosciute e i ricercatori affermano che questo nuovo studio fornisce alcune delle prime prove che esaminano le differenze nel modo in cui bambini e adulti pensano al trattamento degli animali. La ricerca evidenzia infatti come anche i bambini non giudichino tutti gli animali allo stesso modo. Anche loro, quindi, hanno le loro acrobazie morali. La maggior parte, infatti, risponde che i cani dovrebbero essere trattati meglio dei maiali, ma anche che i maiali non dovrebbero essere trattati in modo diverso dagli esseri umani. I due gruppi di adulti, invece, affermano che i maiali dovrebbero essere trattati meno bene dei cani, mentre gli esseri umani e i cani dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Lo studio conclude che l'intelligenza morale dei bambini, però, potrebbe essere preziosa. Se vogliamo che le persone adottino una dieta a base vegetale, è importante interrompere il processo di normalizzazione dello specismo che avviene quando si entra nell'età adulta, ci dicono i ricercatori. E la chiave non è un faticoso calcolo dell'impronta carbonica di una bistecca. La chiave è nello sguardo di un bambino e nel suo innato senso di comunanza con il vivente. L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché 20 anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera che ci portarono in mezzo a una guerra a cui ribellarsi era cosa seria. E la montagna fu madre dei combattenti bambini. Silvestro era un uomo grande che conosceva espedienti a memoria, come un albero ed il suo nome non si piegava alle intemperie. E così alle dittature e alla propaganda esaltata, che assicurava grandezza dove grandezza non c'era. Ma i tedeschi che sparavano e gridando distruggevano, e le donne che imploravano, i bambini che piangevano, e le case che bruciavano ed i fuochi divampavano. E le donne che imploravano, i bambini che piangevano. Noi saremo soli a portare la croce e la storia. Noi saremo soli contro uomini senza memoria. Monga, Cesare e Hussein sono tre giovani scimpanzé e si trovano al centro di un caso grave e drammatico nel loro paese, la Repubblica Democratica del Congo. I tre erano ospiti di un rifugio a Lubumbashi, nella parte meridionale del paese, al confine con lo Zambia, e sono stati rapiti da un gruppo di malviventi, i quali hanno chiesto un riscatto. Il rapimento è avvenuto l'8 settembre scorso. I banditi sono entrati di notte nel rifugio e hanno preso Monga, Cesare e Hussein, salvati nei mesi precedenti dal bracconaggio e ospiti della struttura insieme a 144 altri individui, fra scimpanzé, bonomo e altri primati. Poche ore dopo il rapimento, Roxana Chanterot, che gestisce il rifugio Jack, insieme col marito Frank, ha ricevuto un video nel quale si vedevano due degli scimpanzé a terra, nella sporcizia, e il terzo incatenato a un mobile. Come si legge in un articolo pubblicato sul post.it, i rapitori hanno chiesto un consistente riscatto e minacciato Roxana e i suoi figli. In un altro messaggio, qualche giorno dopo, hanno minacciato di decapitare uno degli animali e di vendere gli altri due, interrompendo poi le comunicazioni. Gli investigatori stanno cercando di capire chi siano i rapitori e quali le loro intenzioni. Di certo, questo rapimento non è il primo caso del genere. A gennaio qualcosa di simile era avvenuto con un pangolino. Non si può ignorare che in Congo è diffuso un fiorente commercio di animali selvatici, dai pangolini appunto ai rinoceronti, molto ricercati per l'uso che si fa di parti dei loro corpi nella medicina tradizionale, fino ai primati, richiesti incredibilmente e a dimostrazione dell'insensatezza delle smisurate ricchezze accumulate da certe persone, per essere tenuti come animali domestici da magnati e arricchiti vari in paesi come l'Egitto, il Pakistan, la Cina, gli Emirati Arabi Uniti. Il Congo, ancora una volta, per le sue smisurate ricchezze naturali e per le sue grandi foreste, si rivela un luogo simbolo del mondo contemporaneo. È il paese del saccheggio, della distruzione di risorse non rinnovabili, del disprezzo per la vita umana e per quella animale. Tutta la nostra solidarietà a chi in quel paese si batte contro questi scempi. Libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Anche per questa puntata abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni a inventare una ricetta a partire da una delle notizie delle quali ci siamo occupati. Gli abbiamo chiesto una ricetta spaziale, pensando a Samantha Cristoforetti e al suo pasto a base di farina di grilli. Sentiamo che cosa ci propone, ricordando che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Cara Samantha, noi ti si vuole bene e te lo dimostriamo con una ricetta tosco-vegan, così da lasciar stare in pace i grilli invece di farne farina. Questi bomboloni che ti racconto li puoi mangiare di sicuro, perché anche la nostra Camilla Lattanzi dice che sono spaziali. Quindi gli ingredienti per 4 persone per i bomboloni spaziali sono 100 g di farina forte, 200 g di farina tipo 0, 5 g di lievito di birra, 210 ml di acqua, 100 g di zucchero di canna, 20 ml di olio extravergine di oliva, la scorza grattugiata di un'arancia, un pizzico di curcuma in polvere, della vaniglia, un pizzico di sale e dell'olio per friggere. In una bowl sciogliete il lievito di birra in 100 ml di acqua tiepida e un cucchiaino dello zucchero di canna e lasciate attivare per 5 minuti. Impastate il lievito con i 100 g di farina forte e lasciate riposare per mezz'ora coprendo con un panno. Trascorso il tempo necessario, aggiungete all'impasto la rimanente acqua, la curcuma, qualche seme di vaniglia e 50 g di zucchero di canna. Iniziate ad incorporare il resto della farina un cucchiaio alla volta. Quando tutto sarà ben amalgamato, aggiungete il sale, la scorza d'arancia e l'olio extravergine. Impastate con movimenti circolari dal basso verso l'alto per una decina di minuti. Mettete l'impasto in un contenitore spennellato di olio con il coperchio e lasciate riposare per un'ora. Recuperate l'impasto e su di un piano infarinato, ed infarinandovi anche le mani, ripiegate la pasta su se stessa varie volte. Poi mettetela nuovamente nel contenitore spennellato di olio, chiudete e lasciate lievitare per 2 o 3 ore in forno spento con la sola luce accesa. Riprendete l'impasto e sempre su un piano infarinato realizzate dei dischi più o meno di 8-10 cm di diametro. Adagiate su quadrati di carta forno e lasciate lievitare ancora una mezz'ora. Scaldate abbondante olio e friggete in immersione un paio di minuti per lato. Fateli scendere nell'olio staccandoli delicatamente dalla carta forno. L'olio dovrà essere caldo ma non troppo bollente, la temperatura ideale è intorno ai 170-175 gradi. Affinché i bomboloni siano ben dorati, ma ben cotti anche internamente. Scolateli e fateli asciugare su carta per frittura o carta paglia. Passateli nel rimanente zucchero di canna e serviteli caldi. Viva l'Italia! L'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere. L'Italia nuda, come sempre. L'Italia con gli occhi aperti, nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Proseguiamo con un estratto da un libro che abbiamo utilizzato più volte nelle scorse settimane per scavare nel passato delle lotte per la giustizia sociale, in un'ottica allargata agli animali non umani e alle tematiche animaliste e ambientaliste. Il libro, pubblicato da CR Edizioni, è Cronache ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. 250 storie di lotta, coraggio e amore. Questa volta prendiamo la voce del 14 aprile, dedicata a Rachel Carson, una pioniera nel moderno ambientalismo. Dice così: «Ma l'uomo è parte della natura e la sua guerra contro la natura è inevitabilmente una guerra contro se stesso». Rachel Carson è stata una biologa, zoologa e scrittrice statunitense, diventata famosa per aver scritto Primavera silenziosa, libro dei primi anni 60, nel quale denuncia il massiccio uso di agenti chimici in agricoltura. In particolare Rachel parla del DDT, all'epoca ritenuto un prodotto miracoloso, svelandone gli effetti disastrosi sugli ecosistemi. Il testo, uscito nel 1962, dopo anni di dettagliate ricerche e dopo aver vinto le resistenze del comparto chimico, diventerà una pietra miliare del movimento di denuncia dell'agricoltura industriale. Invitata a decine di incontri, Rachel, nonostante la sua salute si stesse deteriorando, cercò di divulgare il più possibile i contenuti del suo libro, sfidando, anche sul piccolo schermo, i grandi giganti della chimica, che dovettero gioco forza piegarsi alla validità delle sue tesi scientifiche, accolte addirittura in una commissione del governo statunitense. Rachel morirà il 14 aprile 1964, ma Primavera silenziosa, tradotto in decine di lingue, farà il giro del mondo, contribuendo in maniera determinante a far nascere una nuova coscienza ambientale. Ancora tuona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana e ancora ci porta il vento. Io chiedo: quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare? E il vento si poserà e il vento si poserà. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Anna Granata, Valentina Reggioli, Valentina Baronti, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Soville e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.